Angelina che figa sul mare, ogni tanto passa una nave, sta guardando, resta a guardare. E sua madre in cucina stirata, e tra poco torna suo papà da lavorare, da lavorare. E l'eternità già lo sa che quando il tempo passerà, un giorno la porterà via. E tutta quella ingenuità questo mondo ruberà, ma non sarà colpa sua. Angelina che vive sul mare e che sogna di partire per ricominciare, ricominciare. E sua madre che vuole morire perché lui non la vuole sposare, non sa che fare, non sa che fare. E lei tanto già lo sa che quando il tempo passerà, un giorno la porterà via. E tutta quella ingenuità questo mondo ruberà, ma non sarà colpa sua. Angelina che vive sul mare e che un giorno prese una nave per non tornare, per non tornare. Che suo figlio lo stringe sul cuore, lo protegge dal rumore e dal dolore, e dal dolore. E lei tanto già lo sa che quando il tempo passerà, un giorno lo porterà via. E tutta quella ingenuità questo mondo ruberà, ma non sarà colpa sua. Ma intanto già lo sa che quando il tempo passerà, un giorno lo porterà via. E tutta quella ingenuità questo mondo ruberà, ma non sarà colpa sua, ma non sarà colpa sua, ma non sarà colpa sua, ma non sarà colpa sua.